E quindi buon pomeriggio a tutte e tutti, io sono sempre felicissima di essere qui e in questa circostanza appunto per dialogare con Janek su questo suo libro che appunto è stato un successo editoriale ma è anche un'opportunità per sentir raccontata in prima persona una storia che mi viene da dire di sopravvivenza, ma Janek non sarebbe già d'accordo con questa parola, penso, perché forse lui userebbe la parola di avventura. Una storia che non siamo abituati a sentire, perché è una storia di sopravvivenza di 30 anni, lunga 30 anni di fatto sulla strada. È una storia che inizia con la sua partenza dalla Polonia nel 1992, però il libro inizia nel 1998. Ed è una storia anche complicata da raccontare perché parla di tutto quel mondo appunto che spesso ha storie da raccontare ma le cui storie non arrivano sulla carta, non arrivano nel dibattito pubblico, non arrivano neanche, se vogliamo, nella nostra consapevolezza. E quindi io leggerò dei pezzi, dei brani, Janek ce li racconterà e così proveremo appunto a ricostruire un po' tutti gli aspetti di questa vita sulla strada, che è una vita appunto fatta di violenza, fatta di lavoro, fatta di dipendenza, fatta d'amore, fatta di forme di cura sempre sorprendenti e quando meno te le aspetti. E quindi magari per iniziare, per chi non ha letto il libro, forse ha senso leggere proprio la prima pagina del libro, la prima pagina e mezza, perché dà un po' il contesto di quello che prova a fare Janek e poi da questa iniziale lettura poi daremo la parola a lui. Questo sarà un breve racconto della mia esperienza sulla vita per la strada. Tutto comincia nel 1998 di ottobre. Io sto in una stanza a Campo dei Fiori, contratto di lavoro scaduto, permesso di soggiorno uguale. Ho 1,5 milioni di lire in tasca e penso come riprendere tutto, ma non è facile. Per carattere mio, quando mi annoio, decido di cercare amici di vecchia data. E un pomeriggio vado a Monte Sacro, perché sapevo che c'è qualcuno che chiede l'elemosina lì al semaforo e anche sotto la chiesa. Infatti li trovo. Trovo tutti a Piazza Primoli, accampati di giorno nel parco, dove è il mercato di martedì e di sabato. E di notte dormono sotto il negozio della Levis, di fronte all'ex GS, adesso Carrefour, sopra i cartoni. La mattina caricano tutte le coperte sui carrelli della spesa e vanno al parco. Vivono di elemosina, sia per la strada che davanti alla parrocchia. Gente di quartiere gli dà una mano. Il vino è onnipresente. La sera gli portano la cena da tavola, calda. Tutto quello rimasto da pranzo nel posto dove era proprietario Mimmo. Comunque decido di fermarmi qualche giorno. Subito la gente che mi sta aiutando si interessa a me per varie ragioni. Il mio italiano, il mio comportamento. Parlando esce fuori che il mio mestiere è fabbro. Mi accompagnano in una officina lì vicino da Gino. Lui, sorpreso dal mio italiano, mi assume. Una sera di martedì passa comunque comunità con i Panini e con occasione conosco Christian, che all'epoca ancora studiava all'università. Dopo pochi giorni conosco Marta, perché è venuta a trovare un'amica, Lina, e nasce un sentimento. Marta, anche lei, rischia di rimanere per strada, ma troviamo un posto per lei da una paesana sua a due ponti. E in breve anche lavoro fisso come badante a Valle Aurelia. Insomma, decido di vivere sta avventura che poi è diventata storia vera. Di notte dormo sui cartoni, mattina vado a lavorare. Janek, di notte dormo sui cartoni, mattina vado a lavorare. Per quanti anni l'hai fatto? Non erano anni, perché alla fine ho cambiato, diciamo, mi sono stabilizzato con il lavoro, con tutto quanto. Così. E allora mi sono trasferito a due ponti da un'amica mia, però qualche mese stavo veramente, diciamo, sotto la pioggia e la mattina andavo a lavorare. Per fortuna posso ringraziare il mio datore di lavoro che mi ha dato tutte le opportunità di farmi la doccia in officina, tutto quanto, quindi il cambio, il pane mi tenevo lì dentro, quindi per me queste poche ore di dormire per strada non è stato, diciamo, un incubo, ma anzi, divertimento. Allora, già cominciamo a capire il tono, perché quello che a noi sembra, almeno a me, abbiamo già presentato questo libro altre volte, e poi diciamo io la prima volta con Cristiana che era 15 anni fa, quindi è un punto su cui ci fa interrogare, perché quelle che a noi sembrano mancanze assolute dello Stato, però Janek le affronta con un'altra avventura, come un'avventura. Infatti, dopo poco tempo si sistema in una casa occupata. Ci vuoi raccontare di questa esperienza in una casa occupata che tu adibisci proprio all'abitazione? Allora, questo è successo per caso. Siccome la gente del quartiere mi conosceva molto bene, che sto lavorando, mi hanno suggerito, si parla del famoso Atollo Farinacci, che poi dopo anni si è ripreso il Ministero dei Beni Culturali. Comunque per qualche anno io mi sono sistemato lì. La corrente non avevo problemi perché mi sono comprato un gruppo elettrogeno. Il gas, ovviamente una cucina da gas con la bombola, anche questo era risolto. Acqua era l'unico problema, diciamo, più grosso, però comunque me la portavo con bidoni della fontanella e c'è stava sempre. Quindi alla fine, lavorando e tutto il resto, mi sono praticamente sistemato lì, ce l'avevo tutto, la TV, la radio, praticamente tutto, e anche i cani che erano onnipresenti per qualche periodo nella vita mia. Janek, tu sei senza documenti per lungo tempo e poi racconti a un certo punto nel libro che la tua prima regolarizzazione, il primo permesso di lavoro te lo dà una rebibbia. Esattamente, perché in questi tempi era bisognava, diciamo, che qualcuno ti assume, che ti fa contratto di lavoro, tutto quanto, ma sappiamo bene che tanti preferivano, diciamo, a tenere un operaio in nero che dargli tutte le possibilità di lavorare. E stranamente mi sono regolarizzato da solo, però col tempo sono passati parecchi anni, tutto è un po' strano, però erano secondo idea mia le politiche un po' sbagliate all'epoca, adesso mi pare che tutto è più facile, però comunque ormai non mi interessa più niente perché sono pure pensionato, quindi. Allora, qui c'è un nome che io non so pronunciare, quindi glielo faremo pronunciare a Janek, perché poi questo libro nasce un pochino dalle lettere che tu scrivi da Rebibbia a Christian. Tu gli mandi delle lettere e lui resta impressionato dal modo in cui scrivi queste lettere. E infatti tu, da giovane, ti eri appassionato di questo autore polacco, che è uno scrittore di avventure, perché anche nel tuo spostamento dalla Polonia, prima volevi andare in Finlandia, poi hai incontrato un'altra persona, sei venuto in Italia, e lo stile, è un po' lo stile tu in testa hai, appunto io lo chiamo Slaski, ma tu mi hai corretto 7 volte, quindi dillo giusto, oppure dillo tu. Insomma, la pronuncia è difficile perché in polacco ci stanno queste lettere tipo sci, che qui non esistono, Szklarski si chiama esattamente, ma e mi ha appassionato perché da piccolo io ce l'avevo sto impiccio per la geografia, con la storia anche dell'impero romano, cioè avevo letto tutto, anche la mitologia greca, ero un po' strano, diciamo, per tutti gli altri. E comunque anche non evitavo, diciamo, leggere le storie di avventura che, per esempio, questo autore ha scritto anche un sacco di libri, diciamo, sull'Australia, sugli Stati Uniti, diciamo, America del Nord, sugli indiani. Cioè, io praticamente, leggendo questi autori di questo tipo, ho conosciuto perfettamente, diciamo, la geografia e anche la storia del popolo, degli Inti, degli indiani che sono poi spariti, di tanti. proprio, era mia passione, leggevo anche di notte, non lo so per quale ragione, ma era così. E quindi, diciamo, la tua storia, questi 30 anni si snodano in vario modo, appunto, pezzi di vita sulla strada, sui cartoni, pezzi di vita in questa occupazione abitativa, pezzi di vita prolungata a Rebibbia. E in questa occupazione abitativa non è sempre facile, ovviamente, ma non è facile anche per le relazioni che ci sono. Infatti c'è un passaggio, giusto per dare l'idea anche dei contrasti emotivi che ci sono in tutta questa riflessione, c'è un passaggio che leggo in cui tu racconti un momento di tensione anche con Marta che avviene a Capodanno. Ve lo leggo. Poi solite feste natalizie, Capodanno, e qui un'altra festeria. Come tutti gli anni ormai è una tradizione, dopo la cena nella stanza mia, io me ne sto un po' da parte, per mezzanotte usciamo nella piazza per farci gli auguri, anche con gli italiani che abitano vicino. Poi dopo che rientriamo a casa Gloria, Gloria ci invita nella stanza sua. Io non voglio andare, ma Marta mi convince. Lì trovo questo polacco che ha provocato sto intervento coi carabinieri precedente e anche un bielorusso. Questo comincia a provocarmi, mantengo la calma, prendo Marta e vado nell'abitazione nostra. Abbiamo tutto, ma Marta è un po' scontenta. Accendo la luce e metto musica. Alla fine mi arriva una telefonata da parte di Carlo che voleva andare in giro con Gloria, ma dentro la macchina c'è uno che non parla italiano e gli ha rotto pure un vetro. Io scendo con Marta lì vicino ai cubi della Nomentana. Chi mi trovo in macchina? Bielorusso. Lo tiro fuori, non ragiono più, per la mia storia di un'ora prima, lo meno, Carlo mi ferma e lascio perdere. Torno con Marta alla torre, litighiamo per strada parole, arriviamo allo stabilimento nostro, ancora parole. Io ho la benzina per il gruppo elettrogeno, me lo rovescio sulla testa, prendo un accendino e domando a Marta, devo accendere? Lei risponde, sì, se hai il coraggio. E io accendo, divento una torcia vivente, mi butto per terra, tanto è inutile correre. Per fortuna mia sono usciti a pisciare Pavel e Gregorio, che dopo cena non hanno partecipato ad altri avvenimenti. Pavel mi spegne con una coperta, unico modo. Dopo Gregorio cerca di chiamare ambulanza, ma parla così caoticamente che ambulanza arriva su Nomentana e si aspetta la polizia. Alla fine io chiamo Carlo, lui viene e mi accompagna a Umberto I, insieme a Gloria, sua ragazza del momento, Marta e Pavel. Al pronto soccorso mi viene da scherzare, siccome ho i vestiti tutto incollati, non li posso togliere. Do un coltellino a Carlo e gli dico taglia, lui lo fa. E dopo, quando mi stanno facendo puntura, gli dico fate la doppia perché è forte come un cavallo. E infatti dopo medicazione rido come un cretino, mi accompagnano nella stanza singola, saluto tutti, a Marta dico di portarmi la TV e di non venire più a trovarmi. Non mi rendo conto della gravità delle mie condizioni. La mattina presto sono trasferito a Santo Eugenio, centro ustioni. Era 1° gennaio, 4 interventi di chirurgia plastica in 3 settimane, 24 giorni di terapia intensiva, tracheotomia compresa. È un capodanno da ricordare questo. Meglio di no, alcuni. Come mi hanno spiegato, per esempio, a Santo Eugenio, poi quando ho finito la terapia e sono andato a trovare, diciamo, a ringraziare i dottori, questi mi hanno guardato come un fantasma, dicono, ma tutti cercano di dimenticare, tu invece sei venuto a ringraziarci, sei il primo. Non ho capito questa storia, però veramente, ma purtroppo ho fatto, quindi devo convivere con questo che ho fatto, nonostante sono sbagli o sono le cose buone, ma sempre fanno parte della vita o del mio passato, non posso dimenticare, anzi alcuni vogliono dimenticare, ma io no. Yannick, chi ti ha aiutato in questi anni o come si fa a sopravvivere o dove hai trovato le risorse per andare avanti in tanti momenti? Allora, io siccome ce l'ho un mestiere pure un po' raro, che pochi che sanno farlo, il fabbro, nell'interno di tutte le serature, che pure per questo che stava a Bibbia, no? Però dopo ho usato, diciamo, per fare il fabbro, le aperture delle porte, però comunque anche con le forze di ordine, perché a volte quando c'è sfratto devono essere presenti l'avvocato, le forze dell'ordine, e ho cambiato tutto. Poi ho costruito pure parecchio come fabbro, specialmente con il costruttore Marcello Africano. Abbiamo fatto tanti cantieri, qui devo nominare anche Pino Guadagno, che l'aveva in officina, che ho lavorato parecchi anni con lui, ma ormai ci siamo invecchiati tutti e due, quindi raramente un intervento si fa, ma altro per il momento no. Iane, ti faccio una domanda un po' così: questo libro è dedicato a Marta? E quindi questo libro è anche un libro che parla di una storia d'amore sulla strada, e quindi è un libro difficile, perché cioè, entrambi vivevate una difficoltà, entrambi provavate ad aiutarvi, però alle volte poi la violenza della vita arriva addosso. E poi magari leggo un pezzo in cui racconti anche di Marta, ma vogliamo un po' raccontare un pezzetto della vostra storia d'amore, se voglio. Allora, lei sicuramente la sua sorella, però non diretta, ma di secondo grado, a un certo punto l'ha buttata fuori di casa e ci siamo conosciuti così per caso. E dopodiché, siccome io già stavo lavorando come il fabbro, la gente ne conosceva in zona, dico, no, domando qualcuno che conosco se c'è qualche lavoro, qualcosa. Allora abbiamo trovato inizialmente un lavoro fisso a via di Valle Aurelia, dove stava più di un anno, mi pare. Giovedì e domenica poteva uscire. Io andavo a trovarla, diciamo, quasi sempre lì. E è andata così, finché non c'è stata questa interruzione che non dipendeva da nessuno. Si è ammalata di tumore maligno e purtroppo questo ha cambiato tutto. Janek. È vero che hai ricevuto il tuo primo CUD con questo libro? Che cosa? Che hai ricevuto il tuo primo CUD con questo libro? Cioè, io, nonostante tutto, diciamo, le tasse già ho parlato anche mentre stavo negli anni 90 a Rebibbia, perché lavoravo regolarmente lì dentro. Quindi prima a Rebibbia e poi come scrittore? Sì, ma anche mi pare che per un anno, cioè avevo anche i contratti con cinema, diciamo, però erano occasionali. Mi ricordo la scenografia che era di agosto, facevamo sul montagne, con sottosole, diciamo, enorme, con queste tende, perché erano Medici 2, facevamo questa scenografia con il film. Era caldo veramente che insopportabile, ma nonostante tutto si lavorava. Senti, ti faccio un'altra domanda di quelle delicate, leggo un pezzetto. Alcolismo è una cosa molto grave, c'è una riga molto sottile che non sai quando la attraversi. Esperienza mia mi dice che me ne sono accorto dopo 45 anni. Come ho fatto a sopravvivere non so. Forse mi ha salvato lavoro, perché nonostante tutto riuscivo a lavorare e pure bene, senza rendermi conto in che direzione vado. Ho visto tanti anni fa gente con crisi epilettica, li ho salvati al momento, ma niente, non si sono curati e adesso sono tutti defunti per strada. ho notato che tutte queste persone negano di essere alcolizzati, non so perché. Infatti, perché quando tu ti rendi conto che sei malato o di alcolismo o di altra cosa, allora cerchi di fare pronto questo, perlomeno diminuire, controllarsi. Io ovviamente bevo ancora la birra, no? Ma in una maniera controllata, non come prima che bevevo, diciamo, tutto, la vodka, vino, quello che c'era, non facevo differenza. L'importante è che poi la mia resistenza alcol è un po' particolare, perché altri probabilmente cascavano, diciamo, dopo la quantità che io sono capace di bere, non lo so. Ma non me lo definisco come anche alcolismo, è un mio stile di vita diventato ormai. Senti, leggo un altro pezzetto perché è piuttosto sorprendente, di quando esci da carcere e vai alla stazione Termini con un foglio in tasca, che i miei soldi stanno nella posta, amici mi hanno versato con assegno circolare, ma è tutto chiuso e non ho idea di dove si trova. Vado alla stazione Tiburtina, lì c'è la posta aperta, arrivo, di nuovo problemi per ritirare stupidi 30 euro. Nonostante il foglio e il passaporto, ma alla fine me li danno dopo una discussione. Prima cosa che faccio, mi compro un pacchetto di sigarette, una birra e vado a Talenti. Una volta raggiunta la destinazione, trovo Marta con il cagnolino in mezzo ai superstiti, dopo lo sgombro della torre. E poi c'è la parte interessante, perché a quel punto la terza cosa che fai, la prima cosa prendi le sigarette, la seconda prendi una birra, la terza faccio una cosa, compro un pollo arrosto per il cagnolino, che non l'avevi visto per un po' di tempo, perché voglio che il cagnolino capisce che non è stato abbandonato. Riprendo il mio telefono, chiamo Gino e gli dico che sono di nuovo libero. Cagnolino, il terzo pensiero, il primo pensiero pure. Certo, perché era per me, non lo so, era stato abbandonato, io l'ho preso, l'ho regolarizzato, lo davo sempre da mangiare, per me un membro di famiglia è diventato. E poi ovviamente mi rendevo conto che di nuovo devo riprendere il lavoro, quindi 3 mesi sono passati così e poi ho ripreso a lavorare. Non è che l'unica soluzione, perché altrimenti anche se stai per la strada non è che puoi vivere senza soldi, perché anzi probabilmente servono più che quando stai in affitto, perché tutte le cose, diciamo, dovevo comprare la stufa, questa legionea, cioè combustibile, e le cose costose, anche la cucina al gas, il gas. Per vedere la TV mi sono comprato gruppo elettrogeno, quindi di conseguenza dovevo comprare la benzina, l'olio. Sono due spese che praticamente, vivendo a un appartamento, non spendi tutti questi soldi. Ti faccio le ultime 2 battute conclusive. Una è un pettegolezzo che gira nel, così, tra amici e ambiente letterario, perché quando è uscito questo tuo libro le recensioni parlavano della magia della tua lingua, del tuo linguaggio, e il pettegolezzo che gira, che tu hai insegnato a scrivere a Christian Ryan, è vero? Non esattamente, perché io ho scritto, diciamo, tutto di pensiero mio. Christian solamente che ha letto e dice continua a scrivere, e così mi ha spinto a scrivere questo libro. Vuoi aggiungere qualcosa che non ti ho chiesto? C'è qualcosa che hai voglia di raccontare? No, niente, diciamo, io la vita me lo prendo su una canzone, come Max Gazzè, c'è una canzone. E l'ultima l'ultima domanda al volo che ti faccio è il prossimo libro su cosa lo scrivo. Già ho scritto. Addirittura, abbiamo uno scoop. Non lo so se già è stato pubblicato, ho intitolato La mia vita da outsider. Allora lo aspettiamo calorosamente. Grazie di essere qui. Grazie mille Yannick. Grazie a voi. E io ti ho subito la parola a Matt e ti do due microfoni così. Is that right? At this? Yeah. So this is the first time I've spoken into a microphone. Luca, can you just to begin with your book, Asian Workers Stories, first, where did that come from? And with your research, what was your research and how did you come up with the idea for this book? Ok, quindi partiamo proprio dal tuo libro, Asian Workers Story. Che tipo di ricerca hai fatto? Qual era l'idea dietro a questo libro che ti ha spinto a scriverlo? Good afternoon, everyone. I'm a bit overwhelmed by how many people are here who are interested in working class literature. I come from a working class family in China. My father is a driver, still a driver, and my mom used to be a cleaning lady. And I went to school basically on scholarships. I did my master's and PhD. So my PhD was on working class writings in Asia and Singapore, where I did my PhD. When I was doing my research, I met with a lot of worker writers, and many of them are migrant workers. And as a literature researcher, I'm very aware of my position for what I do. So apart from my academic work, where I wrote for the academia, I also want to do something within the working class writers and give, I hope I can work together with them, bringing the working class literature to the front. That's why I did the book. Ok, buon pomeriggio a tutte e tutti. Sono un po' sopraffatta dal numero di persone che ci sono qua e che sono interessate alla letteratura working class. Io vengo da una famiglia della working class cinese. Mio padre era un autista, mia madre una signora delle pulizie. Tutto il mio percorso scolastico, formativo l'ho fatto grazie a delle borse di studio, il mio master, il dottorato che ho preso. La ricerca di dottorato che ho fatto era sugli scritti della working class in Asia, a Singapore. E durante questa ricerca ho incontrato tanti lavoratori che erano anche scrittori e molti di loro erano migranti, lavoratori migranti. E io ero molto consapevole del mio posizionamento e quindi anche se da una posizione accademica volevo fare qualcosa per valorizzare, per portare alla luce tutti questi scrittori della working class e questo è il motivo per cui ho scritto questo libro. In China and also in other Asian countries like Singapore and others, there are a lot of migrant workers are writing, and there are a big body of literature published by them collectively and individually. I don't think those works are very introduced to Europe or America or other parts of the world. And also, I really want to do a book which is class-based, from the class perspective, because most of the works are published and introduced from the migrant perspective, which I want to problematize. I found it's very problematic to missing out to the class politics in those writings and in the production of those writings. In Cina e in generale in tutta l'Asia ci sono moltissimi scritti letterari di lavoratori migranti, c'è un grande corpus letterario che probabilmente non è molto conosciuto in Europa, negli Stati Uniti o in altre parti del mondo, e il mio obiettivo era quello di fare un libro che desse una prospettiva di classe, che fosse, diciamo, fondato sulla questione della classe, perché molti di questi scrittori spesso vengono presentati, introdotti all'estero a partire da una prospettiva che li qualifica in primis come migranti, che è una prospettiva che io trovo molto problematica, ed è per questo che volevo appunto dare quest'altra prospettiva. And yeah, I think it's a really interesting point, that thing about migrant worker writing often being described as migrant writing rather than worker writing. And I think that parallels a tendency that you get with a lot of writing which could be defined as working class, but ends up being described as, you know, if it's by a working class black writer, it's black writing. If it's by a working class woman writing, it's women's, it's feminist writing. And then all too often you end up with a kind of a working class canon which the class is defined as male and defined as white, kind of implicitly, which I think is a very important point that you're making there. Trovo molto interessante questa cosa che dicevi, il fatto che molti scrittori che sono migranti e fanno parte della working class vengano descritti in primis come migranti e non come lavoratori. E in generale una grande parte degli scritti che potrebbero essere presentati come scritti della working class vengono qualificati in altri modi, quindi se magari è uno scritto della working class di una persona nera, allora si parla di letteratura nera, se invece è scritto da una donna si parla di letteratura femminile o femminista, e quindi troppo spesso la working class finisce per essere identificata solo rappresentata solo dall'uomo bianco, anche se magari a livello implicito. And so with that kind of idea in mind, you know, I think so in your book, issues of, you know, migrancy and migration are obviously, you know, they feature heavily. And I wonder if maybe could you sketch out that, you know, some of these kind of common routes of migration that you get across Asia, or, you know, what are the kind of the push and pull factors that make people migrate from one country in Asia to another? In ogni caso nel tuo libro si parla molto anche dell'aspetto migratorio, e quindi volevo chiederti come prima cosa se puoi abbozzare un po' quali sono le radici comuni delle ragioni che spingono le persone in Asia a migrare da un paese all'altro, perché migrano. So in this book, migrant worker writings in general, a lot of Asians migrate to Europe, Italy or France to work, but in Asia internally there are about 65 million people who migrate to a more developed places like Hong Kong, Singapore, Taiwan, South Korea, Japan to work, and mostly they are from the Philippines, Bangladesh, China, India, Indonesia. So in general, and also you can see it in their writing, of course, they want to improve their working condition, living condition, and most importantly, provide for their families. So I think there is a myth, which is not always true, that migrant workers become rich when they migrate to a rich country, because most of them still make that minimum wage. And also people questioned like, oh, how do you understand Indian writer or Bangladeshi worker as a Chinese? I found that question is ridiculous because a lot of people, like myself, like my father, we need to migrate to a different place to looking for opportunities in life. Allora, ci sono tanti lavoratori che dall'Asia vengono in Europa, in Europa, in Italia, in Francia per ragioni di lavoro, ma c'è anche una grandissima migrazione interna nei paesi asiatici. Parliamo di 65 milioni di lavoratori e lavoratrici che migrano internamente dai paesi, diciamo, meno sviluppati a quelli più sviluppati, quindi verso posti come magari Hong Kong, Singapore, il Giappone, la Corea del Sud, provenendo magari dalle Filippine, dal Bangladesh, dall'India. E questo, diciamo, attraverso i loro scritti si può capire che queste migrazioni sono dovute al fatto di voler migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro e provvedere alla propria famiglia, quindi inviare i soldi alla propria famiglia. C'è anche questa, diciamo, questo luogo comune per cui chi migra verso paesi più ricchi si arricchisce. In realtà questa cosa non è sempre vera. Molte persone che vanno a lavorare in paesi più ricchi molto spesso continuano a guadagnare delle cifre che sono inferiori al salario minimo o si attestano sul salario minimo. E molto spesso mi viene chiesto come, diciamo, da cinese leggo, intendo diciamo, gli scritti dei lavoratori indiani del Bangladesh. E io trovo che questa sia una domanda ridicola. Molte persone devono migrare, mio padre pure ha dovuto farlo e lo fanno ovviamente per migliorare le proprie condizioni. You said earlier that you you came into contact with these, a lot of these migrant worker writers as part of your research. I wonder, you know, could you speak a little bit to what is the kind of you know, institutional level of like working class writing? What kind of institutions, publications, networks exist for working class writing in Asia, and how were you able to tap into those? Allora, stavi parlando del fatto che sei venuta in contatto con gli scritti della working class asiatica attraverso il tuo lavoro accademico, e volevo chiederti che tipo di istituzioni, di reti, di pubblicazioni esistono in Asia per la letteratura working class. So in Singapore, in China, Taiwan, a lot of places, there are a lot of collectives formed by the migrant workers. So they write in those collectives. And also there are NGOs helping to organize some cultural events for them. And in China, there are different groups of workers who are writing and get published their own works. In general, from my perspective, a lot of those publications are framed in a declassed perspective or a framework. So it's very interesting if you look at the migrant worker writings in Singapore. The government or the cultural industries, they welcome those writers and their writings if they talk about their family stories and their hometown and their life in Singapore. But as long as they go beyond those topics, if they write about their working conditions, if they talk about, I want something to change, to be changed, there are a lot of backlash to those writers. Two of them are even deported because of this, because they are too radical for them. So that's kind of the major concern of the migrant worker writings or worker writing in Asia. Unlike in Italy, the language, the narrative there is not very political oriented. Ok, allora in molti paesi come per esempio Singapore, la Cina, Taiwan esistono molte forme collettive di scrittori, lavoratori, migranti che fanno dei lavori di scrittura collettiva. Poi ci sono organizzazioni non governative che aiutano anche a costruire eventi culturali per diffondere questa letteratura working class. E anche appunto in Cina ci sono diversi gruppi di lavoratori che si riuniscono per produrre opere letterarie, e, però lei crede che un grande problema sia che molte di queste pubblicazioni vengono rappresentate soprattutto a livello governativo, a livello istituzionale, come non diciamo facendoli perdere il loro elemento di classe. Quindi ad esempio se uno vede come viene recepita la letteratura working class a Singapore, si può vedere come sia ben recepita, ben accolta, finché questi lavoratori scrittori parlano della propria esperienza personale, familiare, della vita al loro villaggio di origine, della loro vita a Singapore. Ma se invece diciamo vanno oltre a questo e provano a raccontare le loro condizioni lavorative, esprimere attraverso questi scritti il loro desiderio di cambiamento, allora andranno incontro a tutta una serie di problemi, addirittura anche un rischio di essere deportati perché considerati troppo radicali. E quindi questo è un grande problema in Asia, diverso rispetto all'Italia, ed è uno dei motivi per cui la letteratura working class in Asia non è così politica, perché altrimenti si va incontro a questo tipo di problema. And there are also competitions, it's called Migrant Worker Poetry Competition, organized for the migrant worker writers. But those competitions, I mean, they produced a lot of literature, which is great. But if you look, those competitions are funded by the US or Canada embassy, and it's very commercialized, and it's kind of, it's almost like a showcase of the migrant workers in those host countries. And from my perspective, I'm very worried about this kind of showcase, because it seems the workers' writings in those countries and in China too became something can be consumed by the middle class commercial industry, publishing industries, and the middle class local writers or their taste. Ci sono anche molte competizioni di poesia migrante working class, a cui partecipano appunto scrittori migranti della working class, e da una parte questi concorsi, queste competizioni hanno un effetto positivo perché hanno anche contribuito a produrre effettivamente tutta una serie di testi, ma allo stesso tempo è problematico il fatto che spesso siano finanziate dalle ambasciate per esempio degli Stati Uniti o del Canada, e quindi in qualche modo finiscono per mercificare la letteratura working class e produrre una sorta di esposizione di questi lavoratori migranti, come se fosse una mostra, un museo. E questo lei lo trova molto preoccupante, perché in questo modo si rende la letteratura working class un bene di consumo per la middle class, per chi magari è proprietario delle industrie, e quindi in qualche modo si mercifica. Yeah, and I think that it's a really fascinating point. I think there's real parallels, without wanting to say that the two things are too similar, but I think there are real parallels with also, you know, working class writing. I can only speak really from British experience, but with British working class writing, which has to contend with a middle class or a middle class dominated publishing industry. And the thing that really comes to my mind is Anthony Cartwright's excellent novella, The Cut, which was written in the wake of Brexit. And it was, there are two levels to the book where you have the introduction by the kind of middle class editor of the publishing house. There's this level where there's an introduction. The middle class editor of the publishing house, you know, writes this thing about how Brexit was this complete shock to her, compared to then, you know, the novella, which actually, for most of the rest of us who are sort of paying attention to working class life in Britain at the time, could see there was a strong anger underneath everything. But then the entire framing of the book ends up being a kind of investigation for middle class kind of publishers and readers about kind of what the hell is going on in this country that we've not been paying attention to. Allora sì, trovo questa discussione molto affascinante, interessante. Ovviamente non è la stessa cosa, ma credo che ci siano dei paralleli anche con ciò che riguarda la scrittura working class britannica. Anche la scrittura working class britannica è dominata dall'industria editoriale della middle class. Ad esempio, se pensiamo a Il taglio di Anthony Cartwright, che è stato scritto durante la Brexit, credo che ci siano due livelli del libro. Da una parte abbiamo questa introduzione scritta da l'editore, insomma, dall'editore che ha pubblicato il libro, da una prospettiva della middle class, che racconta che per lei, in questa introduzione racconta che per lei la Brexit è stata uno shock, com'è che questa cosa è successa e non ce ne eravamo accorti, e invece il libro parla proprio del fatto che per la maggior parte della working class in quegli anni c'era una grande rabbia che covava, che è stato poi quello che ha portato alla Brexit, ma invece il libro viene inquadrato come, diciamo, in questo stupore della middle class rispetto a questa questione della Brexit. I wonder, could you maybe speak to you know, what sort of levels of experience with writing did the writers in your book have upon publishing? And I wonder if maybe you could talk about some of the common themes and motifs that come through in the collection. Ti volevo chiedere se puoi parlare un po' di quali erano i diversi livelli di esperienza nella scrittura che gli scrittori nel tuo libro avevano, se ci sono dei motivi, dei temi comuni. Thank you. A few years ago, maybe 3 or 5, I put out this call for stories online. Because I'm already in a network of a lot of worker writers in Asia, so I asked them, do you want to contribute to the book? Many of them said yes. So some of the writers in this book are very experienced writers. They have been writing for maybe 20 years or even 30. They published some of them already published their own collections. But some of them are very new to literature, so the writing maybe is kind of uneven in the book. Some you can tell, some of them are very experienced writers, and some of them are, you know, just new writers. And when I want to organize a book like this, I don't want to describe it as a project. It sounds very new liberal, P.T. bourgeoisie taste. I want to make something that can be sustainable, like this is the first one and then we have the next one. So we can have this kind of place where the worker writers there know we are not writing alone, and some there are different alternatives of talking about working life, not only as a migrant or as a marginalized writer. Allora, io appunto ero, diciamo, frequentavo già online molti network, molte reti dove scrittori della working class scrivevano online, e quindi questo è stato uno dei luoghi in cui sono entrato in contatto con loro, e alcuni di loro hanno molta esperienza, magari anche scrivono da 20 o da 30 anni, hanno già pubblicato delle raccolte, altri invece sono molto giovani, e è qualcosa che penso si possa capire leggendo il libro. E un'altra cosa che voglio dire è che non mi piace parlare di questo libro come di un progetto, trovo che sia una concezione un po' piccolo borghese. Per me questo libro deve essere qualcosa che può riprodursi, un modo in cui gli scrittori della working class possono sapere che non sono da soli, in cui ce ne possono essere altri e che ci sono altre persone che scrivono delle proprie condizioni di lavoro da questa prospettiva, non solo come persone marginalizzate, non solo come persone migranti. There's been a lot of stuff in recent years about Chinese migrant worker poetry. I know there's the collection been published in English, like Iron Moon, Zhang Xiaochong, she's had some of her collections published into English. And I wonder, could you maybe speak to, not just about maybe Chinese migrant worker poetry, but you know, Asian worker writing more generally, about who gets chosen to be translated, you know, which writers get picked, and also kind of what is the effect that has on literary scenes back in their home countries. Allora, negli ultimi anni diciamo che si sta diffondendo molto anche qua, anche ad esempio in traduzione inglese, la poesia di letteratori, la poesia di scrittori della working class cinese migranti, appunto molti di loro stanno essendo tradotti in lingua inglese. Ti volevo chiedere se puoi parlare anche non solo dei poeti della working class cinesi, ma in generale degli scritti della working class asiatica, rispetto alla questione di chi e come viene selezionato per essere tradotto in inglese, e anche che effetto ha il fatto che vengono tradotti anche per un pubblico, diciamo, occidentale, sulla scena letteraria dei loro paesi d'origine. Maybe this answer will make a lot of people unhappy. So it's really when it comes to the Chinese migrant worker poetry, I feel sometimes really depends on the who got picked by the scholars in the West, and it's really dependent on this scholar or that translator's decision. Sometimes, if we look beyond why they choose them, sometimes it became, maybe some scholars are very literary, they are not that political, they look the poetry in the literary tradition of the Chinese writing or Chinese literature, and maybe some of them are just found those writers, not another group of writers. And for instance, there is a group of Chinese migrant worker or worker writer collective. They are very radical, they are very political. They want to build up their own working class culture, and those writers are not discussed by the scholars or translated by the by the translators. And also I feel a little bit bad now because it's not my book. I edit the book, but maybe in the following or next years, some of the worker writers themselves can be here, talk about their work, not me talking about them. E allora, forse la risposta che darò non farà felici molte persone, però per quello che riguarda la poesia, diciamo i poeti della working class cinesi, io credo che chi viene scelto per essere tradotto dipenda molto dagli accademici che magari studiano la poesia contemporanea cinese o i traduttori che la vogliono tradurre, quindi dal loro punto di vista occidentale, perché a volte se guardiamo oltre, se appunto proviamo a interrogarci sul perché questa persona viene scelta e non un'altra, magari la risposta è che diciamo non si fa molta attenzione all'aspetto politico di queste poesie, magari qualcuno di loro viene scelto per essere tradotto perché è più vicino ai canoni della poesia tradizionale cinese, quindi l'accademico che se ne interessa è interessato a questo aspetto più letterario, oppure magari diciamo ha una passione personale per questo o quest'altro stile. Per esempio c'è un gruppo di poeti della working class cinesi, migranti, che sono un gruppo molto radicale, che vogliono costruire la propria cultura working class, provano a farlo attraverso i loro scritti e per esempio loro non sono, nessuno ne parla, non vengono tradotti. E poi appunto non sono, diciamo, mi sento un po' male perché comunque questo non è il mio libro, io ho editato questo libro ma non ho scritto io le cose che ci sono dentro, per cui magari spero che nei prossimi anni qua potranno esserci gli scrittori e le scrittrici che hanno effettivamente scritto queste opere letterarie e non io a parlare di loro ma loro a poter parlare di se stessi. Grazie, grazie mille anche a Luca, a Matt e a Francesca che ha tradotto. Non abbiamo molto tempo, però se ci sono due domande, due per Janek o per Luca, le due persone più coraggiose che alzano la mano potrebbero intervenire. Ciao. Scusate, in verità non è una domanda, anche se grazie tantissimo per i vostri interventi. Volevo dire una cosa breve. La mia amica Jar stamattina mi ha inviato un discorso che ha scritto e che sta dando in queste ore su un palco a Bologna. Abbiamo un referendum che è sulla cittadinanza, che sarà l'8-9 giugno, e volevo leggere proprio due parole scritte da lei, perché penso che sia importante portarlo possibile. Ecco. L'8-9 giugno non è un voto qualsiasi, è l'unico modo che abbiamo per rispondere, per dire basta alla paura, alla divisione, all'attesa. Ci stanno abituando a sopravvivere, a chiedere il permesso per esistere, a credere che non ci sia alternativa. Ma c'è, ed è questa. Un referendum, una scheda, una croce, un sì, per dire che 5 anni bastano, non 10 per poter chiedere la cittadinanza. Bastano per riconoscere 2,5 milioni di persone già parte di questo paese. L'8 e 9 giugno votate e per favore fate votare. Grazie mille. Loro, ecco, una ed è lui. più vicina. Ok, prima Matt chiedeva a Luca come la traduzione e la pubblicazione, diciamo, in Europa e in generale nel mondo occidentale influenzasse, se fosse influenzare la scena letteraria di provenienza. Nella bellissima risposta che hai dato, poi questa cosa si è un po' persa, io sarei interessato a capirne. Grazie. Thanks for the question. I think this Western translation or Western influence to the worker writers are very similar to the post-colonial writers in Asia. So for a lot of post-colonial writers, they need to be recognized at home. They need to be recognized at home. When they first, they have to recognize in Europe or America, and then they are recognized at home country. So, I mean, it's not exactly the same, but I see the pattern. Like, for instance, if a British magazine translated a Chinese migrant worker's poetry and it became a news, and then this writer will be interviewed in China, and then some scholars or readers feel like, wow, his writing made actually is good because he was even translated by the British magazine. So I sometimes feel this kind of cultural production imperialism or this kind of power dynamic is there. If someone is talked about by American critics, he's great. No, ti ringrazio per la domanda. Credo che rispetto al tema delle traduzioni in Occidente la questione sia molto simile a quella degli scrittori diciamo postcoloniali, cioè il punto è che per essere riconosciuti nei loro paesi prima devono essere riconosciuti in Europa o negli Stati Uniti, allora solo dopo verranno considerati anche nei loro paesi di origine. Non è esattamente la stessa cosa, ma vedo un pattern. Ad esempio, se una rivista britannica traduce una poesia di uno scrittore della working class cinese, allora solo dopo in Cina questo scrittore sarà intervistato, e sarà intervistato per questo motivo, perché è stato pubblicato in una rivista britannica. E quindi mi sembra che ci sia questa sorta di imperialismo della produzione culturale, queste dinamiche di potere che dicono ok, allora se lì è piaciuto, allora possiamo dire che è bello e ci può piacere anche qua. So, sorry for taking up your time. Maybe one more aspect to that question. There is a group of working class writers in China. They are very aware of this kind of middle class or Western, this kind of power dynamic within the circulation of literature. When I approached to one of them, he was very suspicious of me, and in general this kind of academic work or translation work, he was like, it's okay, you know, like, so we have to talk a lot about different things, and eventually he was willing to be translated and to get to know by me. So I think this kind of who gets translated and who are not is still a issue within our in Asian context. We have to talk a lot. E appunto c'è questo gruppo di scrittori cinesi della working class che sono molto molto consapevoli delle dinamiche di potere, di queste dinamiche di poteri occidentali e della middle class che di come influenzano la circolazione della letteratura. Per esempio, quando io ho approcciato uno degli scrittori che fa parte di questo collettivo, all'inizio lui era molto sospettoso nei miei confronti. Abbiamo dovuto parlare a lungo e passare tanto tempo insieme perché lui alla fine fosse d'accordo con il fatto di essere tradotto per questo libro. E quindi sì, credo che questa questione di chi viene tradotto e chi no sia una questione che ancora, insomma, che ha ancora un significato molto importante nella scena letteraria asiatica. So last year, the slogan of this literature festival was "We are not here to entertain you." So I translated that poster and shared with one of the worker arts in China, which are unknown. He's not translated or talked about by academics in China or West. And he really loved the festival and even the slogan. So he put that poster as his profile on his social media. E appunto lui, solo l'ultima cosa, lo slogan del festival dello scorso anno era "Non siamo qua per intrattenervi". A me è piaciuto molto e l'ho tradotto e condiviso con appunto uno scrittore della working class cinese. Lui non è tradotto in Occidente, gli è piaciuto molto questo slogan, ha deciso di metterlo come slogan anche, insomma, sulle sue pagine social. Grazie, grazie mille, grazie Luca, grazie Marta, grazie Francesca. Siamo in chiusura, volevo ringraziare Janek in particolare, di cui ricordo il suo libro "Storia di mia vita", che trovate qua alla libreria del festival. Janek, potete aggiungere qualcosa, una battuta finale? Certo, solo una. Ringrazio tutti per la pazienza di ascoltarvi.